Allora, 12:48 ancora in diretta con Lauren Garner, che insomma, è ospite qui da noi, un compagno statunitense, redattore, animatore del sito Insurgent Notes. Con lui stavamo facendo una, insomma, una piccola digressione, una panoramica, diciamo, generale di tre punti essenziali che lui ci voleva raccontare, insomma, della situazione statunitense. Ci eravamo fermati a un'importante notizia, secondo noi, insomma, che è il rifiuto da parte dei lavoratori e delle lavoratrici del settore automobilistico di sottoscrivere un contratto settoriale probabilmente peggiorativo, insomma, dalle condizioni di lavoro. Lauren ci diceva che è un caso più unico che raro negli ultimi anni, insomma, negli Stati Uniti, che probabilmente darà il via a una serie di scioperi. Ci stavi raccontando un po' questo quando abbiamo fatto la pausa, e in particolare questo contratto riguarda il gruppo Fiat Chrysler. Sì, poi sì. Mi sembra che la cosa più importante, anche come qua in Italia, come qua in Europa in generale, fine agli anni 70 c'era un movimento di base operaio molto combattivo, molto militante, e come qua per esempio con la decentralizzazione della Fiat c'era anche una strategia della parte dei padroni per rompere questo movimento, e con molto esito. Una cosa che voi conoscete anche qua molto bene è la creazione di due o tre livelli diversi dentro la della forza di lavoro, sì. Anche con c'è una situazione in cui un vecchio operaio che ha lavorato 25-30 anni guadagna come $30 l'ora, e poi al lato un giovane di 22 anni che guadagna solo $12 l'ora. Allora, questo naturalmente è altra frammentazione della forza di lavoro nel settore, che non è stato superato. Forse in questa lotta sì, ma vedremo. Ma una cosa importante da ricordare è che i scioperi selvaggi degli anni 70 non c'erano, non ci sono più. Sì. Ma c'è altra domanda su questa parte della presentazione? O? No, se vuoi andare avanti, perché tu ci dicevi che avevi voglia di darci un po' dei punti, no? Di spunti di riflessione, no? Rispetto alla situazione, quindi. Okay. Sì, io magari, appunto, forse vogliamo tornare dopo per un approfondimento un po' sulla questione delle primarie, delle elezioni, e un bilancio magari di quello che ha fatto Obama finora e del rapporto con la sinistra e con Occupy. Quindi, se vuoi, torniamo più tardi, se no ci puoi dire adesso. Altrimenti invece ti chiederei un po' più sull'economia americana, su questa cosiddetta ripresa dell'economia che c'è, nonostante comunque le difficoltà che comunque ci sono, mi sembrano evidenti, ad esempio legate al fatto che non si riesce ad alzare i tassi di interesse così come si dice da tempo che si vorrebbe fare. Cioè, la Fed continua a dire che bisogna alzare i tassi di interesse da 6 anni, che sono bassissimi, eppure viene rinviato di volta in volta questo momento. Forse capire un po' meglio cosa significa tutto questo dal punto di vista anche sociale può essere interessante. Ok, adesso. Sì, se sì. Vuoi, come preferisci. Okay. Parlare dell'economia è anche molto importante, come voi sapete tutti, a partire degli anni 2007-2008 c'era una crisi mondiale quasi senza precedente dagli anni 30, e negli Stati Uniti, che naturalmente non si può separare dell'economia mondiale, c'era un'enorme riflazione soprattutto con l'indebitamento privato della economia, degli individui, delle aziende, del Stato e tutto. E malgrado questo, il livello di attività, diciamo, produttiva nel settore reale dell'economia è da l'anno 2000, prima della crisi, è a un livello di 1% all'anno di nuova investimento, di nuovi investimenti, solo 1%. Sì, e questo, nella economia reale c'è una stagnazione incredibile, sì. E non solo questo, ma nella stampa borghese normale si parla dell'esito della riflazione fatto per il Fed, perché adesso, alla differenza dell'anno 2009, il livello di disoccupazione è caduto da 10% a 5%, ma una cosa importante da ricordare è che negli Stati Uniti milioni di operai hanno scomparso delle statistiche ufficiali, e anche se per esempio, se tu lavori una ora all'anno non sei disoccupato, se lavori 10 ore una settimana, 15 ore la prossima settimana, non sei disoccupato. Allora tutto questo livello statistico della crisi è completamente falso, e per questo la crisi è molto peggio che si dice generalmente. Infatti quello che mi diceva Loren è che appunto manca una analisi del tasso di inattività, cioè non solo quello della disoccupazione e quello dell'occupazione, ma anche di quelli che proprio non cercano lavoro e quindi non figurano tra i disoccupati, che sono quelli che cercano lavoro ma non lo trovano. E se si tenesse in conto anche queste figure, mi diceva che probabilmente sarebbe il doppio, il 10% il tasso di disoccupazione anziché il 5%. Sì. Naturalmente in questa situazione il livello reale del salario è anche molto caduto, più basso, con tutti i fenomeni che voi conoscete anche qua, con non solo la frammentazione del mercato del lavoro, ma con un lavoro precario, non so, forse 10-12% della forza del lavoro che lavora tra virgolette e si trova nel settore precario. Un'altra cosa molto importante da capire è che non si tratta solo della caduta del salario, ma anche una crescita incredibile dell'affitto nelle grandi città come San Francisco, come New York. Un giovane studente oggi in New York deve pagare come $1,000 al mese per una stanza come questa. Senza contare anche il meccanismo dell'indebitamento studentesco, che è una cosa proprio sì, che riguarda sì, proprio sì. Il modo in cui si funzionano le università negli Stati sì, Uniti, sì. No? Allora i giovani compagni sono obbligati ad andare a altre città per evitare questi affitti altissimi. In generale l'attacco della parte della borghesia contro la classe operaia si fa non solo nella fabbrica, non solo nel posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'edilizia, che adesso non so, forse 20-25 delle famiglie americane pagano la metà del loro salario per la casa, sia una casa loro o sia un affitto. Sì, è un dinamico molto importante. Voglio dire che l'esploitazione non si fa solo nel lavoro, lo sfruttamento. Lo sfruttamento. Con un crescimento incredibile del capitale fittizio immobiliare. Questo è un risultato diretto della strategia del Fed per fare alzare l'economia con questa riflazione, recuperazione. Sì, no, appunto questo volevo chiederti. Quindi questo quantitative easing, questa espansione monetaria di cui si è tanto parlato, che avrebbe permesso all'America di uscire dalla crisi, comunque si sta traducendo in una nuova espansione di capitale fittizio e quindi una nuova bolla speculativa. Abbiamo visto i valori della borsa che hanno superato i massimi storici, e anche questo sembra una difficoltà della Fed in questo momento, che sa che se alzasse i tassi di interesse rischierebbe di far esplodere questa bolla. Quello che ad esempio credo che si sappia meno è il fatto che quindi ci sia anche una nuova bolla edilizia, proprio come quella quasi dei subprime o simile, cioè nuovi investimenti. I mutui e i prestiti per l'acquisto della casa. Non sono sicuro. Una cosa che è sicuro è che 7 anni di riflazione e di riflazione ha fatto soprattutto crescere due settori, la borsa e il settore immobiliare, e non hanno fatto molto per aiutare, tra virgolette, al settore produttivo. Ti volevo fare una domanda anche per collegarci a questo, no? Prima parlavamo fuori onda delle aspettative, no? Che il mondo, tra virgolette, aveva nei confronti appunto dell'amministrazione Obama. Tu giustamente ricordavi che in effetti il simbolo che Obama ricopre è anche importante, no? Se si ricorda appunto la storia degli ultimi 40 anni degli Stati Uniti, però ci sono state delle attese, delle promesse che lui aveva fatto che, tra virgolette, non sono state mantenute. Una cosa che mi piaceva un po' andare a cercare insieme a te è proprio quella della sicurezza sociale, no? Lui ha dichiarato, una delle prime dichiarazioni che fece quando divenne presidente fu quello di risolvere il gap, no? Tra i ricchi e i poveri, diciamo così, degli Stati Uniti, in modo che lo Stato investisse nelle misure di sicurezza sociale. Questo è avvenuto? Se è avvenuto, come si è cambiato in qualche modo qualcosa soprattutto nelle classi sociali più basse, nella base appunto della società? E se invece non è avvenuto, cosa avete fatto, insomma, cosa sta facendo il movimento anche per contrastarlo? Vuoi dire un cambio per il peggio o un cambio per il meglio? Qualunque cambiamento, meglio o peggio. Nella mia opinione Obama era la soluzione politica perfetta per il capitalismo americano nell'anno 2008, perché dopo 8 anni di Bush figlio e la reazione aperta nella ideologia, soprattutto naturalmente con la crisi di ottobre 2008, il capitalismo aveva bisogno di una nuova faccia per fare passare più o meno la stessa politica neoliberale. È per questo che dico che Obama è, non so se è un genio politico, ma ha fatto una politica molto abile per continuare con il neoliberalismo, per esempio nella sua famosa riforma, tra virgolette, del sistema di sanità. Mm-hmm. I prezzi pagati non hanno smesso di crescere. Era la sua legge sul sistema sanitario era un regalo per le imprese di assicurazione. Allora è un esempio, forse il meglio esempio, ma per esempio adesso questa settimana c'era una conclusione dell'accordo tra 40 paesi per un nuovo accordo, accordo di commercio libero, e soprattutto era una politica contro Cina. I paesi principali in questo accordo sono i paesi asiatici. Sì, del sud-est asiatico soprattutto, del sud-est asiatico, quindi... Sì, ma sì, anche il Giappone. E si parla sempre di invitare Cina a partecipare, ma è ovvio, di più in più, che la politica economica non si può separare della strategia geopolitica degli Stati Uniti e anche dell'Occidente. Non so se è il momento per parlare di questo, però a me mi sembra che c'è una strategia offensiva della parte degli Stati Uniti contro Russia, contro Cina, e per la prima volta da 50 anni c'è una vera possibilità di una guerra importante nel Medio Oriente, nell'Asia sud-est e anche in Ucraina. Quello che ha fatto il governo in Ucraina è criminale, soprattutto per rendere più debole Russia. Non so se... No, solo voglio dire che non c'era mai una separazione importante tra economia e politica, ma adesso questa vinculazione è di più in più chiara. E anche rispetto alla politica interna, mi dicevi, cioè questa militarizzazione verso l'esterno è anche portato a una militarizzazione, sì, verso l'interno. Se magari ci puoi parlare anche di questo, ovviamente abbiamo visto gli esempi dell'uso dei militari anche appunto contro i riot nel caso di Baltimora, e questi sono gli esempi forse più visibili, lo scandalo di Snowden che ha rivelato tutta la pervasività del sistema di sorveglianza interno negli Stati Uniti, forse questo può essere una questione interessante. Sì. Allora, a partire soprattutto dal 11 di settembre dell'anno 2001 c'è una militarizzazione costante della società americana nella vita quotidiana, e cominciando con la polizia, è stato visto molto chiaramente nel caso di Ferguson, che quando i poliziotti sono arrivati era come un esercito di 500 uomini armati, persino con 3 o 4 tanks. Carri armati, sì. A parte di questa situazione di crisi nella vita quotidiana, per esempio io vivo in New York e nella metropolitana di New York si vede spesso soldati armati e facendo niente, e stanno solo lì per fare paura alla gente e per ricordare a tutto che c'è la guerra permanente contro il terrorismo. La loro presenza non potrebbe impedire nessun vero attacco terrorista. E poi c'è anche un crescita molto importante di sorveglianza, come si è visto nel caso di Snowden 2 anni fa, o più recentemente è chiaro che la nuova economia elettronica è perfetta per controllare la popolazione in generale a tutti i livelli. Anche per protrarre il cosiddetto governo della paura, no? Perché gestire, in particolare New York, credo che, io mi ricordo quando c'era Rudolf Giuliani, che non a caso era un sindaco che si era proprio, che aveva costruito la propria figura anche su questo, no? Sulla paura degli attentati, ma anche su un modo proprio di gestire la cosa pubblica, che è il controllare continuamente anche i comportamenti individuali. Quindi ho letto un tuo articolo, è molto lungo, però mi interessava il ragionamento che tu facevi rispetto proprio ai cosiddetti riot, no? Perché è un dibattito che anche noi spesso facciamo. Tu ti chiedi, i riot sono la guerra dei poveri contro i poveri, no? Perché spesso si dice: ah, ma quello brucia la macchina del vicino, perché brucia la macchina del vicino, no? Ecco, mi piacerebbe che ci raccontassi anche un po' questo aspetto che tu hai analizzato, insomma. Sì, no, non mi sembra che era un... No, questo non era un articolo mio, era un articolo di un altro compagno di Insurgent Notes. Ma, sì, è abbastanza complicato e francamente non conosco così bene che lui tutta questa storia, ma si trova tra altre cose della manipolazione della polizia, della guerra e delle tregue tra gangs nel mercato di droga. E per esempio sembra che da alcuni anni c'è stata una tregua nella città di Los Angeles tra i gangs latinoamericani e neri, con poche morti nella guerra per controllare i mercati. Ma alla differenza di una città come Chicago, dove non mi ricordo esattamente della cifra, ma c'erano come 500 morti in scontri tra gangs lì. Non so esattamente perché c'è una differenza così grande, ma è così. Volevi sapere più appunto il ruolo della polizia in queste ultime, diciamo, in questi ultimi mesi, ultimi due anni, possiamo dire, è anche molto sotto attacco, no, dall'opinione pubblica, perché è chiaro, sì, che c'è un problema serio, oltre, sì, al fatto della repressione, sì, quotidiana, ma c'è un problema proprio anche all'interno delle forze di polizia, che si sta manifestando con gli scontri, con i, sì, cosiddetti riot, eccetera. Ecco, volevo sapere anche i compagni, insomma, come si stanno, oltre alle cose che immagino si possono fare, il sostegno, eccetera, anche come convivete con questo e come vi attivate, diciamo, rispetto a questo. Per esempio nel caso di Ferguson è molto interessante, c'è un dibattito tra i compagni su precisamente questa questione, e ce ne sono alcuni che dicono che a livello alto, a livello di Obama e del governo centrale, c'è una vera tentativa di non di finire, ma per controllare meglio questi scontri locali. E come voi sapete tutti, ogni settimana negli Stati Uniti la polizia uccide 3 o 4 giovani neri o latinoamericani, ma soprattutto neri. E una cosa importante da capire nella politica americana è che la società americana, malgrado le apparenze, è una società abbastanza decentralizzata, con livelli di potere a partire del livello locale, passando per le città, i stati, fino al governo centrale. E è perfettamente possibile che Obama e il suo gabinetto vogliano davvero finire con questa situazione, poliziotti incontrollati uccidendo la giovane nera, ma la cosa importante da capire è che c'è sempre una resistenza a diversi livelli contro questa tentativa. Per esempio, nel caso di Ferguson, Obama ha spedito una delegazione di neri, di funzionari neri che hanno cambiato davvero il governo locale. È una città con una maggioranza del 70% dei neri, e nonostante il consiglio municipale era interamente bianco, la forza di polizia quasi interamente bianco e così via. Sono venute e hanno fatto cose per cambiare questo, ma a livello del resto del paese non mi sembra così facile. Per esempio, non capisco molto bene la dinamica, ma è certo che a causa di Ferguson, a causa di questi nuovi movimenti neri, c'è stata una reazione razzista importante della parte una parte della popolazione bianca. E per esempio Obama ha cominciato a spedire messaggi per Twitter, ma c'erano tante risposte razziste che doveva smettere di spedire messaggi così. E anche nel internet, durante il movimento dell'anno scorso, c'erano anche molti commentari ultra razzisti, ma non si può sapere se si tratta di un vero movimento. È certo che esiste questa popolazione, ma nella mia opinione è una minoranza attiva, militante, organizzata, ma non è la maggioranza dei bianchi. Volevo dire, sì, prego. Una cosa di più per tornare alla questione delle elezioni. Posso sbagliarmi? Mi sono sbagliato molte volte nella mia carriera, tra virgolette. Non, per esempio, nell'anno 80 non credevo che America potrebbe eleggere qualcuno come Ronald Reagan e così via. Ma questa volta mi sembra che, malgrado tutte le apparenze, un politico come Trump, alla destra dura, ha offeso gli immigranti, ha offeso le donne, ha offeso gli omosessuali e così via. E come nel passato, la destra americana, come si vede oggi, è una minoranza dei bianchi piuttosto vecchie o con 40 anni, 50 anni. Una minoranza che si sente minacciata nel suo potere anteriore. Ma tutte queste forze che ho menzionato non possono votare gente così. E nella mia opinione, mi posso sbagliare, nelle elezioni dell'anno prossimo ci sarà un candidato del centro-sinistra che starà altra volta nella Casa Bianca. Non sono sicuro, certo, ma è così che lo vedo.